9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon lunedì 3 ottobre, una settimana che comincia diciamo in maniera abbastanza rovente, perché tra code della Grecia con la Troica che chiede condizioni a cui la Grecia non è in condizioni a propria volta di ottemperare, e quindi la grana dell'eurodebito persiste, uno, e poi di là, se andiamo invece all'Italia, l'Italia è una specie di pentola in ebollizione, dove verdure varie e diverse contribuiscono a una temperatura in pentola sempre più elevata, di cui è difficile vedere quale sarà il cibo finale. Perché dico questo? Oggi ci occupiamo di uno degli aspetti aperti per capire se possiamo dal patrimonio pubblico ricavare una quota significativa da dedicare ad abbattimento del debito pubblico. Quindi parliamo di privatizzazioni, facciamo il punto dopo il seminario che si è tenuto al Tesoro la scorsa settimana, che ha fatto un rendiconto aggiornato, anche se non troppo aggiornato a dire la verità, di tutto ciò che appartiene all'amministrazione pubblica, e con i nostri ospiti parleremo delle diverse ipotesi per procedere a dismissioni. Ma al di là di questo, che è uno dei tanti capitoli aperti dopo aver letto la lettera della BCE, aver capito quanto la lettera della BCE al governo, in base alla quale la Banca Centrale Europea sostiene i nostri titoli, resta lontana dalla manovra adottata poi, al di là di questo altri fattori si sono aggiunti tra venerdì e oggi. C'è stata, ricordate, ve l'avevamo anticipata a lungo, la conferenza stampa di tutte le imprese italiane, di Confindustria, delle cooperative, dell'ABI, quindi del sistema bancario, dell'ANIA, delle imprese assicurative, di Rete Imprese Italia, e venerdì è stato reso pubblico il documento in 5 punti in cui si chiede sostegno alla crescita. Lo stesso giorno sui quotidiani italiani, sui principali quotidiani italiani, una pagina a pagamento di Diego Della Valle, Politici ora basta, in cui l'imprenditore marchigiano, patron della TOZ, con un linguaggio diretto e tagliente, ha detto: politici, vi rendete conto che la maggior parte degli italiani non vi dà più credito, e quindi o siete capaci di uno sforzo supremo di serietà oppure non rappresenterete più questo paese che si merita di meglio. Un tono che ha suscitato una lunga coda di polemiche politiche, a dire la verità trasversali, perché nel centro-sinistra e nel centro-destra c'è chi ha preso costruttivamente, o meglio non troppo polemicamente, l'uscita molto polemica di Diego Della Valle, e c'è chi invece ha iniziato a parlare di antipolitica, di tentativo di spallata come nel 93-94, alcuni lo hanno fatto nel centrodestra anche per il manifesto delle imprese, incardinandolo su ambizioni personali di Emma Marcegaglia, dimenticando però che ci sono tutte le sigle delle imprese italiane su questo. Infine, ancora in questi minuti, avete sentito il giornale radio che ne ha appena dato notizia, le lettere inviate dall'amministratore delegato della Fiat Auto e Fiat Industrial, due lettere, una per Fiat Auto e una per Fiat Industria, al presidente di Confindustria Marcegaglia, e Sergio Marchionne conferma la volontà che era stata adombrata più e più volte nel corso del 2011, conferma la volontà di Fiat di uscire da Confindustria dal 1 gennaio 2012. Nella lettera si legge che l'azienda si riserva di valutare la possibilità di collaborare in forma da concordare con alcune organizzazioni territoriali di Confindustria e in particolare con l'Unione Industriale di Torino. Il nocciolo del ragionamento e del motivo per il quale Fiat ribadisce l'intenzione di abbandonare Confindustria tra tre mesi e quella relativo agli accordi sui contratti aziendali, pur riconoscendo il cammino che è stato fatto tra le intese del 28 giugno, le intese che hanno ratificato le condizioni di rappresentanza e le conseguenze delle intese aziendali, e al 28 giugno è stato possibile firmare questa intesa anche con la CGIL, mentre nei due anni precedenti, dopo la rottura fatta all'inizio del 2009 col nuovo patto per interconfederale per la deregolabilità dei contratti, la CGIL era stata fuori dai tavoli. La Fiat aveva detto, dopo quell'accordo del 28 giugno, che restavano questioni ancora aperte. Queste questioni erano quella della validità erga omnes e della retroattività delle intese già intanto raggiunte, quelle a Pomigliano, a Mirafiori, è a Grugliasco. È intervenuta poi la manovra del governo all'articolo 8, sul quale la Fiat ha dato giudizi molto positivi, dicendo il governo ci ha dato quello che abbiamo chiesto, cioè la retroattività e la validità erga omnes di accordi che erano stati raggiunti prima delle condizioni pattuite tra Confindustria e sindacato per la validità delle intese aziendali, e che quindi rischiavano di continuare a offrire il destro per impugnatività giudiziale. E però alla Fiat non è poi affatto piaciuto l'accordo interconfederale del 21 settembre, quindi quello di pochissimi giorni fa, nel quale Confindustria con i sindacati si sono dati atto, a proposito proprio dell'articolo 8, della volontà di concordare loro tra parti sociali le condizioni offerte dall'articolo 8 della manovra. E in questo la Fiat ha visto un tentativo di sminuire l'articolo 8 e quindi l'intervento del governo che sanciva le intese aziendali già fatto. È ovvio che in questo potete leggere anche il giudizio che John El Khan ha dato sul manifesto delle imprese, dicendo che non è più tempo di proclami. La faccio breve prima di arrivare al punto di oggi. C'è un quadro nel quale, come la politica si slabbra di fronte all'altra bomba esplosa, quella delle consegne delle firme del referendum, 1.200.000, quindi con il tema che diventa immediatamente all'ordine del giorno per vedere se fare o meno il referendum, se questo significa protrarre o meno la vita della legislatura, e con differenziazioni, lo abbiamo visto nella Lega, Maroni che dice bisogna tenerne conto, Calderoli che dice il contrario, un maroniano che vince a Brescia rispetto a coloro che sono vicini a Bossi. Come la politica, dico, si slabbra ed è unita, anzi disunita, da febbre interne nella maggioranza, vedi anche il congresso del PDL in questo fine settimana degli eletti, voglio dire a Milano, che è andato diversamente da quello che si aspettava, dall'altro anche dalla società, dal fronte delle imprese, tentativi di prendere in mano una specie di leadership di un paese così scassato e balbettante, con poca dignità internazionale, ma dall'altro anche divisioni, perché pesano gli interessi. La Fiat va avanti per la sua strada, perfettamente consapevole che l'uscita dell'azienda più importante del manifatturiero italiano, che ha più di 100 anni di storia, l'uscita dalla Fiat, dalla Confindustria, è qualcosa di storicamente molto pesante, e che naturalmente lancia un'ipoteca sulla nomina del prossimo presidente di Confindustria nei primi mesi del prossimo anno. È inevitabile che questo diventerà uno dei temi fondamentali. E dall'altra non tutti condividono i toni di Della Valle, e la società guarda perplessa. Questo è lo sfondo, mentre c'è ancora un paese le cui istituzioni non danno la risposta che occorre dare tra pochi giorni per la nomina al vertice della Banca d'Italia, e mentre il fuoco divampa in Europa. Veniamo al punto di oggi, ma vi dico, potete telefonare su tutto, perché è evidente che in queste condizioni il ruolo della nostra radio diventa quello di offrire un orecchio a ciò che c'è anche nella vostra pancia. Andiamo al punto che avevamo scelto, quello dell'attivo patrimoniale pubblico. C'è stato un seminario al Tesoro giovedì scorso, fortemente voluto dal ministro dell'economia Tremonti, che ha messo intorno al tavolo coloro che si erano occupati di fare la stima dell'attivo patrimoniale delle pubbliche amministrazioni, che era un progetto che, a dire la verità, va avanti dai tempi dai primi anni 90, che di volta in volta viene abbandonato e poi ripreso in mano, era stato rilanciato quando il direttore generale del Tesoro era Domenico Siniscalco. È stato fatto il riepilogo aggiornato dei valori dell'attivo patrimoniale, cioè a fronte di un debito pubblico che attualmente è di 1.900 miliardi di euro, sorpresa, intanto l'attivo patrimoniale per la prima volta le pubbliche amministrazioni diventa, sia pur leggermente, inferiore al valore del debito pubblico. Quindi primo campanello di allarme, perché la stima del conto patrimoniale che è stata presentata vede un attivo di 1.815 miliardi. Tenete conto che queste stime sono a valori di 5-6 anni fa, quindi sono molto opinabili. È stata fatta una correzione solo parziale per alcune delle voci dell'attivo patrimoniale, ma per il resto, quindi, i valori sono un grande punto interrogativo. Quindi è una stima molto spannometrica. Di che cosa sono fatti questi 1.815 miliardi? Cassa disponibilità, poca roba, 276, crediti e anticipazioni attivi, poca roba, 240, beni intangibili, 78. Dopodiché andiamo alle voci che contano davvero, cioè gli immobili, le partecipazioni e le concessioni. Allora, lo Stato ha un totale sui 1815 miliardi. Da ora in poi ci occupiamo della parte di patrimonio cedibile o che si può mettere a reddito, cioè non ci occupiamo, per così dire, del Colosseo e di tutto ciò che ci si può assimilare. Occupiamoci invece, questa è la stima che è stata fatta aggiuntiva, della parte di patrimonio di cui si stima che o ci si perde invece che guadagnare sul patrimonio immobiliare per come è mal gestito, oppure lo si può cedere. E sono tre le voci che entrano nella parte da mettere a reddito, cioè gli immobili, le quote di partecipazione di società controllate o partecipate e le concessioni. Allora, naturalmente quello che rileva è che il totale della parte da mettere a reddito o cedibile o di cui aumentare il guadagno è una parte molto considerevole sugli 1800 rotti miliardi, cioè sono 571 miliardi, e vi ripeto, i valori sono valori arretrati di parecchi anni fa. Ma la cosa che subito rileva è questa: come sono distribuite queste immobili partecipazioni e concessioni? Lo Stato sui 571 miliardi non va oltre, secondo il Tesoro, i 185 miliardi, di cui solo 72 sono di immobili, dopo le alienazioni fatte negli anni 90 con SCIP 1, SCIP 2 e SCIP 3, solo 72 miliardi. Poi ci sono 63 rotti miliardi in partecipazioni, cioè le quote detenute dallo Stato nelle aziende quotate a controllo pubblico come l'ENI, l'ENEL, eccetera, eccetera. Fuori da questo conto sono rimaste Poste e Ferrovie, che sono integralmente pubbliche ma non quotate, c'è dentro Terna e così via. Poi ci sono le concessioni, 50 miliardi di valore, concessioni tipo autostradale, frequenza e così via, e quindi il totale fa 185. Nelle autonomie invece, nelle mani delle autonomie, regioni ed enti locali, c'è il più di questi 570 miliardi, cioè 386 miliardi, perché ci sono 350 miliardi di immobili, 17 miliardi di partecipazioni, 20 miliardi di concessioni. E la domanda diventa: se dovessimo mettere mano a dismissioni pubbliche molto rilevanti utilizzando il patrimonio da mettere a reddito o cedibile delle pubbliche amministrazioni, come si fa a immaginare un veicolo credibile, efficiente in termini di mercato, tenuto conto che i prezzi delle medie immobiliari italiane non sono scesi come negli altri paesi, ma che tenga conto del fatto che lo Stato ha solo 72 miliardi di immobili, mentre le regioni e gli enti locali ne hanno 386. Questi immobili sono tutti acquistati dalle autonomie nell'esercizio della loro autonomia finanziaria nei decenni? No, i più vengono da conferimenti iniziali. Eppure, come immaginare cessioni senza farli compartecipare? Si potrebbero immaginare soluzioni nelle quali lanciamo un grande piano di cessioni con un tavolo di compartecipazione che consenta a quel punto di entrare meno in tensione sui trasferimenti che vengono tagliati nel frattempo alle autonomie che tante polemiche suscitano? Oppure si può immaginare che tutte le cessioni fatte dalle autonomie automaticamente possano essere portate a investimenti infrastrutturali in opere senza il rispetto a quel punto del patto di stabilità, ma collegati solo a piani che naturalmente a quel punto non diventano spesa strutturale permanente, ma si identificano in progetti? Quale delle possibilità? Ma certo qualche cosa di simile bisogna immaginare, perché altrimenti tutto questo enorme patrimonio resta nelle mani dell'autonomia, a cui nel tanto nel conto economico nazionale ogni anno noi tagliamo i trasferimenti, loro non cedono, non si abbatte il debito pubblico e non si risolve il problema del tira e molla tra Stato e autonomie. Per questo abbiamo chiesto a Osvaldo Napoli, che è il presidente, quello che sta svolgendo la funzione di presidente dell'ANCI ed è vice capogruppo del PDL alla Camera, di rispondere a questa domanda. Di fronte a questo patrimonio pubblico così attribuito e di fronte all'emergenza di pensare di abbattere del maggior numero possibile di punti di PIL il debito pubblico ricorrendo al portafoglio dello Stato prima che a quello dei cittadini, come può immaginare l'ANCI di fare una proposta allo Stato dicendo: se si apriamo un tavolo comune di queste proporzioni, noi possiamo cederne anche tanto, ma tu in cambio che cosa ci dai? Questa è la domanda. Buongiorno e grazie Osvaldo Napoli. Buongiorno a lei, grazie, ho ascoltato con attenzione tutto quello che lei ha detto, perché lei ha detto delle cose estremamente importanti. Se mi permetta soltanto una battuta: viviamo oggi una situazione certamente, come dire, di confusione, uso questa parola, sia nel mondo politico sia nel mondo industriale, perché le contraddizioni che ci sono nel mondo della politica, non vi sono dubbi, basta vedere a leggere i giornali, anche su Antonarico un profano lo capisce, però con le ultime anche prese di posizioni che lei giustamente diceva di Della Valle, positivo o negativo, bisogna vedere che intenzioni ha Della Valle, se ha intenzione di andare in Confindustria o se ha intenzione di mettersi in politica, sia il problema della Di Marchionne e quindi dei rapporti con la Confindustria, l'uscita o meno, certamente pongono degli interrogativi estremamente importanti. Per quanto riguarda i comuni, beh, noi crediamo che il tavolo di lavoro che noi chiediamo e che abbiamo già chiesto e che il ministro Fitto si è preso carico di dover convocare entro breve tempo, credo che sia quel tavolo che è necessario per discutere tutte quante queste situazioni sotto un certo aspetto ad opera. Però parliamoci chiaro, qua i comuni ogni giorno, ormai da lunghi anni, guardi, lo dico, io sono presidente facente funzione ancora per 2 giorni, quindi posso dirlo, sia per quanto riguarda il centrodestra sia per quanto riguarda il centrosinistra, hanno ripulito ormai completamente le possibilità economiche dei comuni, piaccia o non piaccia, le vacche grasse, gli sprechi, tutto quello che voi volete, che una volta forse in parte avvenivano negli anni 20 anni fa, 15 anni fa, 20, 30 anni fa, oggi non ci sono più perché non regge più, quindi il sistema non regge più dello spreco. Certo, ci sono dei comuni che sprecano ancora, ma io parlo nell'ambito della totalità, il 95%, adesso sto dicendo delle cose di questo genere, non sprecano più, quindi il valore che hanno i comuni in casa attraverso del patrimonio non può essere così, perché con tutto rispetto Tremonti decide come ha deciso parecchio tempo su alcune questioni e ci mette in condizioni che, il buon senso dice ci mettiamo tutto ad un tavolo, siamo disposti tutti, voglio dire, e do soltanto questo, in 3 manovre i comuni hanno dato 7 miliardi e sono l'unica parte della pubblica amministrazione che ha avuto un attivo di 3 miliardi. E continuiamo a ricevere schiaffi in faccia. Io credo che questo non sia più possibile. Io ho sempre mandato un messaggio, e lo dico anche come PDL, ma scusate, ma lo dico a Tremonti, ma perché prima di fare una legge e prima di fare una manovra non chiamate gli addetti ai lavori che al limite a parità di saldi vi dicono meglio cosa fare? Perché quello che è mancato al ministro in questi tempi è la contrattazione, il tavolo di lavoro, cioè probabilmente, compresi i suoi funzionari, quando hanno fatto delle norme senza conoscere cos'è la vita di un piccolo comune o di un grande comune. Noi chiediamo questo, credo che non chiediamo la luna, chiediamo che anche sul problema patrimoniale ci si metta intorno al tavolo, ma non che arrivi dall'alto delle imposizioni, sarebbe un fatto enormemente negativo e non vi sono dubbi di un impatto politico estremamente forte. Ma nel caso in cui lo Stato decidesse, lo Stato inteso come la parte centrale, decidesse un programma di alienazioni di beni immobiliari che stanno sono gestiti, sono nell'attribuzione dei comuni, in questo caso potrebbe avvocare a sé i proventi delle cessioni oppure no? Io credo che se avvenisse questo non vi sono dubbi che la risposta degli enti locali, ma ripeto, al di là del colore politico, che mette le proprie proprietà, lo Stato le requisisce, dico fra virgolette, sarebbe onestamente l'antitesi della democrazia, quindi io non credo che si possa arrivare a questo, non vi sono dubbi, lo ripeto, che i comuni a quel punto lì dovesse venire questo, e siccome qualcuno adombra anche questo aspetto da parte di qualche politico, io credo che ci troveremmo ad una conflittualità cosa mai avvenuta nella storia democratica del paese, quindi voglio dire ci troveremo una conflittualità sia fra virgolette di protesta molto forte istituzionale di un ente contro un altro, ma sia anche ci sarebbero ricorsi a tutti i livelli, e io credo che una cosa di questo genere qualsiasi tipo di ricorso verrebbe vinto. No, è impossibile pensare che lo Stato in automatismo ti tolga via tutte le proprietà che sono proprietà degli enti locali. Io non ci credo, sia in termini normativo e legale, sia in termini, ripeto, politico-amministrativo e istituzionale. Un altro delle cifre che sono uscite dal seminario di giovedì al Tesoro è quello relativo al totale delle società. E insomma, qui si tratta di 9.000 società, insomma, di cui la stragrande maggioranza tra società controllate e partecipate eccetera, di cui la stragrande maggioranza appunto afferisce ai comuni. E anche lì la cifra in un decennio della crescita di questo numero di società è a doppia cifra. In questo caso chi del fronte delle imprese critica e dice al di là di tutto si continua a far proliferare a livello locale società controllate e partecipate che spesso spiazzano l'impresa privata quando i soldi poi i comuni lamentano che sono pochi per gestirle, quindi vanno in perdita, bisogna ulteriormente pensare a trasferimenti e a copertura. Questa proliferazione di società che molti poi associano alla politica che mette le mani dovunque, in realtà da cosa nasce secondo lei se non da questo? Ma guardi, la volontà che poi avviene, che poi realmente, non ho paura di dirlo, si risolve in negatività, la volontà di dare un servizio migliore al cittadino e forse anche di ritirare, di avere un utile di ritorno, mentre invece questo quasi sempre, molto spesso non avviene. Teniamo presente che la riforma dei servizi pubblici locali è una cosa che è già fatta in parte, ma indispensabile. 9.000 società è una cosa da finimondo, sono io il primo a dirglielo che non ha senso, sono onestamente sprechi inutili. Teniamo presente, lo dico anche al radioascoltatore, che ormai anche i consiglieri di amministrazione di questi enti hanno delle incompatibilità con le nuove norme, che non prendono gli emolumenti, sono quasi tutti, diventano tutti quante società senza emolumenti, specialmente l'incompatibilità fra consigliere comunale e membro di società. Però anche se naturalmente il tesoro ha dato la cifra complessiva dicendo che il totale di tutti gli amministratori di queste 9.000 società porta a casa rappresentano 2 miliardi e mezzo, quasi 2.4 miliardi di euro l'anno. Ha ragione lei a dire che poi sono soprattutto quelli della parte alta di queste 9.000 a determinare questo costo, non certo tutti a 9.000 pro quota. Esatto, non ci sono dubbi, cioè condivido pienamente, però vede, io voglio dire questo, il ministero si è messo anche a fare i conti sui piccoli comuni, che sono completamente i piccoli comuni, probabilmente qualche funzionario lo sapeva che il consigliere comunale di un piccolo comune sotto i 1.000 abitanti non prende niente. Cioè, voglio dire certe volte, per quello che dico, lo dico per uomo che conosce la situazione, era sufficiente venire a chiedere che gliel'avrebbero spiegato anziché lavorare sulla carta. Quando vi è un funzionario del Ministero del Tesoro che dice da domani c'è soltanto più il sindaco potestà, ma è roba da finimondo, tenendo presente che una maggioranza e una minoranza, metta pure quello che vuole, 2-1 in qualsiasi parte del mondo deve esserci qualcuno che ti controlla, perché in un paese democratico, quindi già il fatto che avevano scritto quello significa che qualcuno che ha, ripeto, di comuni non ne sa proprio nulla. Detto questo, delle 9.000 società, non vi sono dubbi, sono esagerate, sono sproporzionate, bisogna ritornare ad un efficientismo estremamente forte e i comuni devono fare la loro parte, quindi io non ho nessun problema a dirlo. C'è da dire anche questo però, che quando si dice entro un anno voi dovete vendere le quote della società, dovete vendere il resto, vengo a dire entro un anno, entro 6 mesi, nelle nuove normative si fa un errore gravissimo sotto questo aspetto. Mettere una società oggi, un'ottima società sul mercato in una situazione di questo genere, corre il rischio di non venderla, ma di ricevere 4 soldi rispetto al proprio valore, estremamente negativo. Quindi attenzione, voglio dire, oggi aspettiamo che anche le società che oggi hanno un peso notevole, hanno dell'utile per mettere sul mercato, aspettiamo un momento diverso, perché il momento di oggi certamente non raccogliamo quanto la società vale. Anche questo è un altro aspetto che il legislatore non ha capito, e credo che bisogna aspettare il momento del mercato più utile. Il problema è, io ringrazio l'onorevole Osvaldo Napoli per la cortesia e la chiarezza con cui ci ha risposto. Avete capito che lo scenario in questo quadro di cooperazione, per così dire, di immaginare un grande tavolo in cui lo Stato dice io devo fare in modo che tu ceda una parte significativa di questi 386 miliardi di patrimonio immobiliare, però ti devo aprire un'altra ottica sul taglio dei trasferimenti e sul patto di stabilità, e oggi i termini di questo scambio non ci sono più da parte di questo governo. Questa è la mia sensazione, e l'onorevole Napoli ci ha aiutato a capire perché. Resta il fatto che se noi non cediamo mai nulla, restiamo in questa situazione in cui il complesso di questi oltre 500 miliardi di patrimonio immobiliare rendono neanche lo 0,1%, cioè costano più di quello che rendono, e questo è o non è uno scandalo? Secondo me lo è. Eccoci tornati, punto sull'attivo patrimoniale pubblico fatto giù dal Tesoro, ma telefonate un po' a ruota libera dall'uscita del della Fiat confermata da Confindustria, al manifesto Basta politici di Diego Della Valle, al manifesto delle imprese lanciato venerdì, al referendum. Sono tanti i temi appunto che ribollono nella pentola italiana. Cominciamo con Luigi che chiama dalla Spezia. Prego Luigi. Sì, buongiorno, innanzitutto Giannino, complimenti per la trasmissione perché è fedissima. Senta, io le pongo un quesito che è proprio attinente, inerente insomma all'argomento. Dunque, le faccio un esempio. A Firenze, dove abito io, no? Ci sono le immobili dello Stato e ci sono appartamenti che vengono dati a militari che le hanno in affitto, tra l'altro a dei prezzi bassissimi. Ma a prescindere di questo, questi immobili che sono in trattativa per essere messi in vendita e quindi acquistati, vengono acquistati appunto direttamente da militari, però non a prezzo di mercato, ma per esempio a prezzi sotto i 1000 euro al metro quadro. Quindi facciamo conto, un appartamento di 100 metri quadri 90.000 euro. Quegli stessi immobili, se facessimo un'asta pubblica dove ci può partecipare qualsiasi cittadino, verrebbero venduti a 400-500.000 euro. Mi domando, è vero che loro servono lo Stato, ma perché ci devono avere questo privilegio? Visto che lo Stato ha bisogno in questo momento di soldi, non sarebbe meglio ottimizzare al meglio la vendita e quindi incassare il più possibile? Grazie. Allora, Luigi, se le unità immobiliari a cui si riferisce lei fanno parte dell'amministrazione della difesa, c'è un cumulo di sentenze accumulate in materia con giurisprudenza della Cassazione. Lo so perché una volta per puro caso me ne occupai, che assegnano il pieno diritto di prelazione agli occupanti, se legittimamente occupanti, cioè se in regola con i titoli previsti dalla legge e dai regolamenti per essere occupanti. Quindi da questo punto di vista lei ha perfettamente ragione a lamentare la discrasia di prezzo, però tenga conto che la difesa molto si lamenta, e secondo me un po' ha ragione, negli anni per non essere stata fino a quest'anno, sono disposizioni della finanziaria di quest'anno quindi ancora da implementare, per non essere lei stata resa direttamente titolare delle procedure di dismissione delle proprie aree non utilizzate e però dell'incasso anche ai fini del proprio bilancio, perché ogni amministrazione da questo punto di vista tenta di non rimetterci tutto dando tutto allo Stato, e quindi la difesa da questo punto di vista risponde sempre: ci avete stratagliato in questi anni. Però c'è giurisprudenza in materia, quindi da questo punto di vista ritengo che la sua osservazione dovrebbe fare cambiare le procedure, ma oggi non avviene in violazione della legge, anzi in ottemperanza alla legge. Roberto della provincia di Como, prego Roberto. Sì, pronto, buongiorno. Evidentemente era su questo, segnalavo che piccoli comuni della bassa comasca, un tempo anche ricchissimi, no? Con i proventi delle discariche o altro, oggi come oggi si trovano con l'acqua alla gola, con queste società, quindi di cui si parlava qualche istante fa, partecipate di proprietà del comune, che si sono in sostanza impadronite del, tra virgolette, delle proprietà immobiliari, e sono ipotecatissimi, cioè quindi abbiamo ogni genere di palazzo comunale, di villa, piuttosto che di proprietà, che una volta era del comune, che oggi è gravato da ipoteca per finanziare spese correnti, qualche volta anche clientelari, diciamo qualche volta eufemisticamente. Addirittura pensi che in uno di questi paesi, dove abito io, le scuole comunali, quindi le scuole comunali sono andate all'asta, perché il comune non era solvente nei confronti di una fornitura particolare. Oltre a questo non so cosa raccontare. E naturalmente il valore delle ipoteche è un valore che incide pesantemente sulla stima poi del valore alla cessione dell'unità immobiliare. Da questo punto di vista quindi quello che occorrerebbe sarebbe un registro estremamente accurato dei valori. Bisognerebbe in realtà fare un conto patrimoniale in cui tutte le amministrazioni pubbliche, locali e centrali, fossero tenute al conto patrimoniale aggiornato, io dico mark to market, ogni anno, non dico ogni semestre ma almeno ogni anno, perché questo ci consentirebbe di avere a portata di mano una parte patrimoniale fatta secondo i criteri moderni e accurati, principi contabili con cui lo fanno le imprese, consentirebbe di capire in tempo reale sempre qual è il valore reale, e ci sarebbe l'obbligo quindi in quella parte patrimoniale di inserire gli abbattimenti di valore conseguenti a obbligazioni o a titoli ipotecari, a qualunque tipo di cosa di questo genere, e noi l'avremo in tempo reale. Questa fa parte secondo me dell'ABC di un una reimpostazione della contabilità pubblica secondo principi di mercato e di piena trasparenza, perché il contribuente ha pieno diritto a saperlo da questo punto di vista. Allora, nella sintesi delle cessioni della giornata di giovedì, il Tesoro ha detto: come vedete, da tutti questi 1815 miliardi del conto patrimoniale, per una ragione o per l'altra, non crediamo di poter ricavare nei prossimi anni più di una decina di miliardi di cessioni, ma altre 10 miliardi li ricaveremo da una cosa che lì per lì all'indomani tutti hanno ripetuto, tranne che poi l'indomani abbiamo iniziato a porci il problema di che cosa volesse dire, e molti di noi si sono grattati la testa dicendo: ma dove vogliamo arrivare? Perché se dal totale di cessione dell'intero patrimonio pubblico ci si aspetta non più di 10 miliardi, e a me scappa da ridere per l'esiguità di questa cifra a fronte del totale del debito pubblico, perché indica che vi vogliono prendere i soldi con la patrimoniale, invece questo è il sottinteso, quando lo Stato ha un patrimonio di queste proporzioni e i debiti li ha contratti lui, la cifra equivalente al totale delle dismissioni pubbliche è stata indicata come proventi da privatizzazione dei diritti di emissione del CO2. Allora, di fronte a questo tutti i giornali l'hanno scritto, dopodiché gli esperti del settore hanno iniziato a spiegare che la privatizzazione dei diritti di emissione del CO2 è una questione un po' singolare. Allora, siccome abbiamo Corrado Clini, che è direttore generale del Ministero dell'Ambiente, presidente del Comitato Interministeriale sul Clima, che ha scritto più e più volte su questo tema e ha scritto anche dopo l'annuncio del Tesoro, chiedo a Corrado Clini, ringraziandolo e salutandolo per essere qui con noi: ma non è che per caso sono gli stessi diritti di emissione che lo Stato dovrebbe reinvestire a favore delle rinnovabili? Che cosa significa che le privatizza, e cioè le incassa, se non che fa un aumento di prelievo fiscale e incamera roba che dovrebbe essere incentivo fiscale alle rinnovabili? Perché io ABC capisco così, può essere che sbaglio, mi dica lei. ABC e D anche. Senta, allora, la direttiva europea che è stata approvata l'anno scorso, un anno e mezzo fa, prevede che a partire dal 2013 le imprese che hanno emissioni di anidride carbonica devono acquistare dei permessi di emissione, cioè pagano un valore, il controvalore economico stimato più o meno fra 10 e 20 euro a tonnellata di emissione, corrispondente alle emissioni che loro hanno, per cui ci sono le grandi centrali termoelettriche piuttosto che le grandi acciaierie o anche le piccole altre imprese che hanno emissioni di anidride carbonica, che a partire dal 2013 dovranno pagare in relazione alle emissioni che hanno. Questi soldi dovrebbero entrare nelle casse dello Stato, secondo la direttiva europea, soprattutto per alimentare fondi nazionali ed anche europei a favore dello sviluppo delle nuove tecnologie a basse emissioni. Per cui, sostanzialmente, per dirla in due parole, una specie di carbon tax, di tassa sul carbonio, con una finalità principale, che è quella di sostenere investimenti pubblici oppure anche privati per migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni. Ora è chiaro che nel momento in cui questi soldi entrano nelle casse dello Stato, in una situazione come quella che abbiamo, non soltanto in Italia, potrebbero essere contabilizzati a riduzione del debito, però evidentemente si fa un'operazione diversa da quella prevista dalla direttiva europea, e purtroppo si fa un'operazione uguale a quella già fatta in Italia alla fine degli anni 90, quando fu introdotta la carbon tax. La carbon tax fu pagata dalle imprese, la finalità era di sostenere finanziamenti per l'innovazione tecnologica nel settore energetico, ma poi quei fondi sono entrati direttamente nelle casse dello Stato, punto. Altri paesi avanzati hanno proceduto in maniera analoga o si apprestano a procedere in maniera analoga, che lei sappia? C'è una discussione, diciamo, a livello europeo in corso, però devo dire che Gran Bretagna, Francia e Germania sono piuttosto intenzionate, e anche i paesi nordici, a sostenere, a fare in modo che queste entrate servano a sostenere gli impegni nazionali per lo sviluppo di tecnologie innovative. Fra l'altro, una quota di queste risorse dovrebbe essere destinata a un fondo europeo per investimenti nei paesi europei ed extraeuropei che hanno minori performance ambientali. C'è una discussione comunque chiaramente in corso, anche perché tutto questo si innesta in una complicata negoziazione internazionale, perché oggi purtroppo questa cosiddetta tassa verrà applicata soltanto alle imprese europee, mentre per esempio negli Stati Uniti, piuttosto che in Giappone e in Canada, al momento non ci pensano, non vogliono applicarla, e in Australia, dove hanno provato ad applicarla, hanno dovuto tornare indietro. Per cui, accanto al problema rappresentato dalla destinazione dei fondi che si incassano, c'è pure l'altro che riguarda la competitività delle imprese europee, che sono costrette a pagare una tassa che i loro competitors internazionali non pagano. Io ringrazio Corrado Crini per la sua chiarezza. Avete capito che è stato annunciato giovedì come proventi da privatizzazione semplicemente un introito aggiuntivo rispetto alle finalità previste dalla direttiva europea di questa carbon tax. Gli introiti della direttiva erano finalizzati a incentivi per le tecnologie a bassa emissione. Lo Stato invece incamera, e quindi accresce, tanto per cambiare, ancora una volta, prende dove può questo Stato artigliato la sua pressione fiscale, e per di più, capolavoro, salto mortale, fuoco d'artificio, lo annuncia come privatizzazione. Devo dire che in questo caso la mia capacità di stupore di fronte anche alla disinvoltura dei semantemi usati, che ipotizza un totale coglionismo da parte di chi ascolta, mi ha fatto dare un pugno sul tavolo, perché ci deve essere un limite, capite, di tipo, vogliamo chiamarlo epistemologico, alla capacità di prenderci in giro. Ci deve essere questo limite, o altrimenti bisogna che i cittadini lo ristabiliscano, questo limite. Quindi mi dispiace, io vi annuncio, io il referendum per esempio sono tra 1.200.000 italiani che lo hanno firmato, e non cambierei idea neanche morto, e spero che contribuisca a cambiare questa situazione intollerabile in cui non c'è più una dignità italiana da difendere. E guardate, lo dico senza distinguere troppo le responsabilità politiche, perché questo governo ai miei occhi la credibilità l'ha persa, ma se guardo alle proposte dall'altra parte e guardo alle lettere della BCE, beh, c'è di mezzo il mare ignoto nella distanza delle posizioni, e sapete come la penso. Eccoci qui tornati per la chiusura. Cominciamo con Gioacchino che chiama da Como. Prego Gioacchino. Buongiorno Oscar. Buongiorno. Allora, volevo dare un contributo a questo dibattito. Essendo stato per anni amministratore comunale di un piccolo comune della Brianza, e per anni nel consiglio di amministrazione di una piccola società pubblica si occupava di depurazione. Ecco, negli anni in cui sono stato amministratore, quella società produceva tanti utili e reinvestivamo gli utili per efficientare gli impianti, per fare collettamenti, per dare servizio alla collettività. Negli ultimi anni, non essendo amministratore ma vedo i bilanci, la società è costretta a distribuire ai comuni gli utili perché non riescono a far fronte alle spese loro, alle spese di funzionamento dell'amministrazione. Quindi uno dei danni che creerebbe la privatizzazione di queste società è, uno, non drenare più liquidità nei comuni, ma soprattutto impedire gli investimenti per migliorare e efficientare i servizi. Cioè, credo che sia un grande danno. L'unica cosa che consiglio, se devono fare dei cambiamenti, è quello di accorpare tutte le piccole società presenti sul territorio, di crearne delle società più grosse, possibilmente di accorpare i servizi, di accorpare i consigli di amministrazione. Questo per esempio che sta toccando, secondo me, è per me il punto, prima ancora di deciderci per giudizio di efficienza, perché dalle cifre comparate è evidente anche di questo rapporto lo giovedì che per qualunque classe dimensionale l'efficienza della società pubblica controllata o partecipata pubblica è minore di quella privata. Ma al di là di questo, prima di dividerci su questo, però una cosa è sicura: per la stragrande maggioranza degli 8.000 rotti comuni italiani, le società che hanno come perimetro di pertinenza quello del proprio comune non corrispondono minimamente all'ambito ottimale di servizi che è l'unico che può contribuire anche a un eventuale equilibrio del loro bilancio o addirittura alla produzione di utili, quando anche fossero le più efficienti possibili. È vero o non è vero, Gioacchino? Condivido. L'accorpamento è un fatto dovuto e necessario, però Il mio problema è che il dividendo non deve andare più ai comuni, deve essere reinvestito per fare opere pubbliche. Giusto. Cioè bisogna potenziare la nostra rete idrica, la nostra rete fognaria, perché questo è il problema. E questo, non si finanzia le opere. Quando abbiamo fatto il referendum, io l'ho perso, ma abbiamo dato con ricchezza le decine e decine di miliardi che il nostro sistema idrico chiede per gli investimenti e per la chiusura del ciclo in tutta la parte ancora che riguarda un quinto dei cittadini italiani in cui non c'è il trattamento finale adeguato agli standard europei anche delle acque reflue. Antonino che chiama dalla provincia di Lecco, prego Antonino. Sì, buongiorno dottor Giannino, la ringrazio della possibilità. Io avevo due cose che volevo dire, la prima era questa: se qualcuno si fosse infine peritato di valutare il valore della quantità immane di reperti archeologici, beni immobili, culturali che giacciono dei depositi, perché io non troverei un'eresia il fatto di vendere qualche urna cineraria etrusca o di creare un modo per valorizzare questi Antonino, beni. Antonino, e chi lo sente? Il professor Settis, la FAI, tutti quelli che dicono che poi sono le cavallette, i barbari che vogliono privatizzare il patrimonio intangibile. Lo sa che loro hanno più volte scritto che è meglio che giacciano nei depositi? Nei depositi però non servono a nulla, sono un costo, non possono essere fruiti, perché la questione dei beni culturali crea una fruibilità per la collettività. Adesso voglio dire, se ci vediamo qualche urna cineraria etrusca e ne possono godere, che ne so, in un museo della Gran Bretagna, facciamo un bene al nostro bilancio e ai cittadini britannici che possono vedere le nostre urne cinerarie. La seconda cosa che volevo dire era invece sulla vendita del patrimonio immobiliare dei comuni. Ma i comuni sono 7 anni che devono fare le verifiche di culturalità di questi beni per capire se possono spostarli nei patrimoni disponibili e nessuno ha applicato questa legge. La Corte dei Conti ogni anno lancia un allarme su questa cosa dicendo il codice urbano è completamente inapplicato, fate le verifiche di culturalità e tutti se ne fregano. Io devo dire che sono piuttosto sconsolato sul tema della valorizzazione del nostro patrimonio culturale e sul tema delle possibili privatizzazioni immobiliari dei beni comunali, credo che non si andrà da nessuna parte. Antonino, la mia esperienza, avendo contribuito a far mettere denari a grandi imprese private per realizzare grandi iniziative di valorizzazione del patrimonio, è che su questo la resistenza della casta, in questo caso non politica, della casta amministrativa del MIBAC e delle sue articolazioni territoriali, ideologizzata, iperideologizzata, e il più delle volte, non voglio generalizzare, spesso tendente a esprimere il proprio potere solo attraverso dei no, cioè dicendo veto e inibisco, ecco, questo è uno degli ostacoli da risolvere. In questo caso c'è una microcasta che non è quella politica, è quella dei dirigenti e dei funzionari dell'apparato amministrativo, potentemente innervata da una visione ideologica, e quella del professor Setti, sì, lo dico sempre, e di tanti che la pensano come lui, che dicono meglio nei depositi che con i barbari che vogliono da questo ricavare proventi, come se poi la cessione ad altri enti culturali, patrimoniali eccetera nel mondo non servisse appunto a rendere ancora meglio conosciuto, noto e in grado di generare flussi poi nei confronti dell'Italia il nostro patrimonio. Vito da Catania, prego Vito, rapido. Buongiorno, rapidissimo. E allora intanto vorrei dire Tremonti, perché non si mette a suo fianco prima di dare numeri? Che lei la vedo molto più all'altezza di Tremonti, forse. No, guardi, io faccio un altro mestiere, però se questo è il senso della telefonata, la liquido con una risata e un ringraziamento, ma temo che per quanto stia messa male l'Italia ci sono risorse, competenze, serietà e dignità note a livello internazionale incalcolabilmente superiori a quelle di Oscar Giannino. Vito, c'è ancora tempo per una battuta rapidissima. Sì, la battuta rapidissima è che lo Stato cerca di vendere tutti gli immobili per cercare di recuperare soldi da tutti i fronti, ma quando vende un immobile e poi ha degli immobili affittati che spendono una marea di denari, anziché di vendere, perché non vanno a eliminare gli affitti che loro hanno, che vanno a spendere chissà quanti soldi? La mia opinione, Vito, è che ci sono troppi affitti pubblici, perché c'è tutta un'esplosione di moltiplicazione di uffici pubblici, questo ha riguardato l'amministrazione centrale come periferiche, però il più delle volte quando si è proprietari di immobili conviene cederli e passare a un affitto, perché l'affitto a quel punto, se non rientra nel limite del bilancio, rende ovviamente l'amministrazione pubblica più attenta a vedere se andarsene in un'altra unità immobiliare più piccola. Quindi io sono dell'idea che è meglio vendere comunque. Grazie anche a Vito, grazie a tutti, e Linea Giornale Radio, appuntamento a domani.